Capitolo 10. La chiesa. Bene, signorina Gray, che cosa ne pensa del nuovo curato? Chiese la signorina Murray al nostro ritorno dalla chiesa la domenica dopo la ripresa delle nostre lezioni. Beh, non posso dire granché, risposi, non l'ho ancora sentito predicare. Però l'ha visto. Sì, ma non posso pretendere di giudicare il carattere di un uomo da uno sguardo gettato di sfuggita al suo volto. Ma non è brutto. La sua bruttezza non mi ha colpito in modo particolare. Non mi dispiace quel tipo di fisionomia. Invece la cosa che ho notato in lui è il suo modo di leggere, che mi pare buono, infinitamente migliore almeno di quello del signor Hatfield. Legge i precetti in modo da dare a ogni passaggio il massimo effetto. Anche le persone più distratte non potevano fare a meno di prestare attenzione, e le più ignoranti dovevano capire per forza. E quanto alle preghiere, non pareva che le leggesse, ma che le recitasse spontaneamente di tutto cuore. Oh, sì, è buono soltanto a questo. Può cavarsela al servizio divino abbastanza bene, ma non ha alcuna idea d'altro. Beh, come fa a dirlo? Oh, lo capisco benissimo. Sono un ottimo giudice di simili casi. Ho visto come è uscito dalla chiesa, strafalciando, come se fosse là da solo, non guardando né a sinistra né a destra, non pensando evidentemente che ad andare fuori dalla chiesa e forse a casa a pranzo. Immagino che avrebbe voluto che gettasse un'occhiata al banco dello Squire, dissi io ridendo alla violenza della sua ostilità. Al contrario, sarei stata vivamente indignata se avesse osato farlo, rispose ella, sollevando la testa con orgoglio. Poi, dopo un istante di riflessione, aggiunse: Bene, bene, immagino che vada abbastanza bene per il suo posto. Ma sono contenta che non devo contare su di lui per divertirmi, ecco tutto. Hai visto come si è precipitato il signor Hatfield per ricevere un mio saluto e per arrivare in tempo per aiutarmi a salire in carrozza? Sì, risposi, aggiungendo fra me, e ho pensato che pregiudica un po' con la dignità di un ecclesiastico vederlo volare giù dal pulpito con quella precipitazione per stringere la mano allo squire e aiutare la moglie e le figlie di questi a salire in carrozza. Inoltre gli serbo rancore per avermi quasi chiusa fuori dallo sportello. Infatti, sebbene io fossi in piedi quasi di fronte a lui, di fianco al predellino della vettura, aspettando di salire, gli persisteva a sollevarlo e a chiudere la porta finché qualcuno della famiglia lo fermò, gridandogli che non era ancora dentro la governante. Allora, senza una parola di scusa, si scostò, salutandolo e lasciando che il domestico terminasse la faccenda. Il signor Hatfield non mi ha rivolto la parola e neppure il signor Hughie o la signora Meltham, né il signor Harry o le signorine Meltham, né il signor Green o le sue sorelle, né nessuna delle signore e signorine che frequentano quella chiesa, come nessuno di quelli che frequentano Horton Lodge. Nel pomeriggio la signorina Murray ordinò di nuovo la carrozza per sé e sua sorella, disse che faceva troppo freddo per divertirsi in giardino e inoltre credeva che Harry Meltham sarebbe stato in chiesa. Perché, disse sorridendo maliziosamente alla propria soave immagine nello specchio, in queste ultime domeniche egli è stato il più esemplare dei fedeli. Si penserebbe che sia un buon cristiano. E lei, signorina Gray, venga pure con noi. Desidero che lo veda. È tanto migliorato da quando è ritornato dall'estero, non lo immagina. E poi avrà l'occasione di rivedere il signor Weston e di sentirlo predicare. Lo sentii predicare. E senz'altro mi piacque la verità evangelica della sua dottrina, come la profonda sincerità delle sue maniere e la chiarezza e la forza del suo stile. Fu veramente confortante sentire quella predica, dopo essere stata abituata agli sproloqui asciutti e prosaici del coadiutore precedente e alle arringhe ancor meno edificanti del parroco. Il signor Hatfield attraversava veleggiando la navata, o piuttosto vi passava come un uragano, e con la sua ricca veste talare, che gli fluttuava dietro e che frusciava contro gli sportelli dei banchi, saliva sul pulpito come un conquistatore ascende il carro trionfale. Poi, appoggiandosi al cuscino di velluto con un atteggiamento di grazia studiata, rimaneva in silenzioso raccoglimento per alcuni minuti, quindi mormorava una giaculatoria e borbottava un Padre nostro. Si alzava, si toglieva un lindo guanto profumato alla lavanda per offrire alla congregazione la vista dello scintillio dei suoi anelli. Si passava lievemente le dita fra i capelli ben arricciati, metteva in mostra un fazzoletto di battista, recitava un brevissimo passo, anche solo un versetto della Bibbia, come cappello alla predica, e finalmente ci elargiva il suo componimento, che in sé poteva considerarsi buono, sebbene troppo lambiccato e artificioso per essere di mio gradimento. Le frasi filavano, gli argomenti erano condotti con logica, eppure qualche volta era faticoso ascoltare tutta quanta la predica senza qualche sia pur leggero segno di disapprovazione o di impazienza. I suoi argomenti preferiti erano le norme canoniche, i riti e le cerimonie, la tradizione apostolica, il dovere di rispettare e obbedire al clero, il delitto atroce di dissentire, la necessità assoluta di osservare tutte le forme di devozione, la presunzione colpevole di coloro che osano pensare con la loro testa in fatto di religione o che si fanno guidare da interpretazioni personali della Bibbia e di tanto in tanto, per entrare in grazia dei suoi parrocchiani ricchi, la necessità della deferenza e dell'obbedienza dei poveri verso i ricchi. E sosteneva i suoi principi e le sue esortazioni con citazioni prese dai padri, coi quali sembrava che avesse più dimestichezza che con gli apostoli e gli evangelisti, e ai quali sembrava desse almeno pari importanza che a questi ultimi. Ma ogni tanto ci faceva una predica di tutt'altro genere, che qualcuno diceva molto buona, ma tetra e severa, che rappresentava Dio come un censore terribile invece che come un padre amorevole. Eppure, osservandolo, ero indotta a pensare che quell'uomo era sincero in tutto quel che diceva. Certo aveva cambiato opinione, era diventato decisamente religioso, grave e austero nello stesso tempo che devoto, ma l'illusione era di solito dissipata all'uscita della chiesa, nell'udire la sua voce in allegro colloquio con qualcuno dei Meltham o dei Green o magari con le stesse Murray, e nel sentirlo ridere della propria predica e dire che sperava di aver dato qualcosa da pensare alla gentaglia. Magari esultando all'idea che ora la vecchia Betty Holmes rinunciasse alla sua pipa peccaminosa, che era stato il suo ristoro quotidiano per oltre 30 anni, che Giorgio Higgins paventasse di fare le sue passeggiate serali nei giorni di festa e che Thomas Jackson avesse la coscienza profondamente turbata e fosse scosso nella sua certezza di una beata risurrezione all'ultimo giorno. Così non potevo fare a meno di concludere che il signor Hatfield era uno di quelli che legano gravi fardelli e li appendono alle spalle degli altri, mentre essi non li toccano con un dito, e che con la loro autorità rendono di nessuna efficacia la parola di Dio, insegnando invece che dottrine divine, i comandamenti degli uomini. Fui ben contenta di osservare che il nuovo coadiutore, per quel che potevo vedere, non gli assomigliava in nulla. «Allora, signorina Gray, che cosa ne pensa di lui?» disse la signorina Murray appena salimmo in carrozza dopo la predica. «Ancora niente di male», risposi. «Niente di male», ripeté lei divertita. «Che cosa intende dire?» «Intendo dire che non penso di lui peggio di quel che ne pensavo prima». «Non pensa peggio?» «Lo credo bene, proprio il contrario. Non è molto migliorato?» «Oh, sì». «Moltissimo, davvero», risposi, perché allora mi accorsi che ella parlava di Harry Meltham e non del signor Weston. Harry Meltham era venuto tutto premuroso a parlare alle signorine, cosa che non avrebbe osato fare se fosse stata presente la madre. Non aveva cercato di chiudermi fuori dalla carrozza, ma neppure naturalmente mi aveva prestato il suo aiuto. Non l'avrei del resto accettato se me l'avesse offerto. Ma fino a quando lo sportello era rimasto aperto, era stato in piedi a scherzare e a chiacchierare con loro, e poi si era levato il cappello ed era andato per la sua strada. Io l'avevo appena notato durante tutto quel tempo, ma le mie compagne erano state migliori osservatrici e durante il tragitto discussero fra loro non soltanto gli sguardi, i gesti, le parole di lui, ma ogni tratto del viso e ogni particolare del suo abbigliamento. «Non l'avrai tutto per te, Rosalia», disse la signorina Matilde alla fine di quella discussione. «Piace a me, so che diventerebbe per me un compagno piacevole e allegro». «Bene, sì, la benvenuta per lui», rispose sua sorella in un tono di indifferenza voluta. «E certo», continuò l'altra, «egli mi ammira quanto ammira te, non è vero, signorina Gray?» «Non so, non sono al corrente dei suoi sentimenti». «Oh, ma è così». «Mia cara Matilde, nessuno ti ammirerà finché non ti libererai delle tue maniere così rozze e volgari». «Oh, sciocchezze! A Harry Meltham piacciono quelle maniere, e così agli amici del babbo». «Ah, ebbene, forse conquisterai uomini vecchi e figli minori, ma certo nessun altro si invaghirà mai di te». «Me ne ne infischio. Non sto sempre a correre dietro al denaro come te, la mamma. Se mio marito sarà in grado di tenere qualche buon cavallo e qualche cane, sarò soddisfattissima e tutto il resto può andare a farsi friggere. Ma se usi con lui quelle espressioni urtanti, ti garantisco che nessun vero gentiluomo avrà il coraggio di accostarsi a te. Veramente, signorina Grey non le dovrebbe permettere di parlare così. Ah, non riesco a impedirglielo, signorina Rosalia. E ti sbagli di grosso, Matilde, supponendo che Harry Meltham ti ammiri. Ti assicuro che pensa a tutt'altro. Matilde stava per rispondere, ma fortunatamente la nostra scarrozzata era finita e la disputa fu interrotta dal domestico che apriva lo sportello della carrozza e abbassava il predellino per farci scendere. Capitolo 11. I contadini. Ora che avevo ormai una sola allieva fissa, benché mi desse fastidio quanto tre o quattro, e benché sua sorella prendesse ancora delle lezioni di tedesco e di disegno, avevo a mia disposizione molto più tempo di quello che ne avessi mai goduto da quando mi ero posta il giogo della governante. Dedicavo in parte quel tempo a scrivere agli amici, in parte a leggere, a studiare o a esercitarmi nella musica e nel canto, in parte a passeggiare per i poderi e per la campagna circostante con le mie allieve, se lo desideravano, o sola, se non desideravano la mia compagnia. Spesso le signorine Murray, quando non avevano delle occupazioni più piacevoli, si divertivano a visitare i poveri contadini delle terre del padre, a riceverne gli omaggi ossequienti o ad ascoltare storie trite o fresche e pettegolezzi dalle vecchie loquaci. O magari ad assaporare il piacere più puro di render felici i poveri con la loro presenza incoraggiante e i loro doni, fatti con tanta poca fatica e ricevuti con tanta gratitudine. Qualche volta mi si concedeva d'accompagnare in queste visite una o tutte e due le sorelle, e qualche volta ero pregata di andare da sola per assolvere qualche promessa che erano state più pronte a fare che a mantenere, per portare qualche piccolo dono o per leggere a qualche persona malata o gravemente indisposta. E così strinsi alcune conoscenze fra i contadini e di tanto in tanto andavo a vederli per conto mio. Di solito provavo più soddisfazione ad andar sola che con l'uno o l'altra delle signorine, principalmente per colpa della loro cattiva educazione e se si comportavano verso i loro inferiori in modo che mi dava molto fastidio. Non si mettevano mai nei loro panni, per cui considerandoli come una categoria di esseri del tutto diversa, non avevano nessun rispetto per i loro sentimenti. Osservavano questa povera gente durante i pasti, facendo osservazioni incivili sui loro cibi e sul loro modo di mangiare. Ridevano della loro ignoranza e delle loro espressioni paesane, tanto che alcuni quasi non osavano spiccicar parola. Le persone molto anziane dei due sessi dicevano che erano pazzi e scemi, e tutto senza intenzione di offendere. Vedevo che le persone erano spesso punte e seccate da una simile condotta, benché il timore delle grandi dame li frenasse dal manifestare alcun risentimento, ma le ragazze non si accorgevano di nulla. Pensavano che, siccome quei contadini erano poveri e ignoranti, dovevano essere stupidi e volgari, e fin quando esse, che stavano al di sopra, si degnavano di discorrere, di regalare loro scellini e mezze corone e articoli di vestiario, avevano il diritto di divertirsi alle loro spalle. E la gente doveva adorarle come angeli in paradiso, poiché si abbassavano a provvedere alle loro necessità e a rischiarare le loro umili dimore. Feci svariati tentativi per togliere alle mie allieve queste opinioni errate, senza allarmare il loro orgoglio, che era rapido a offendersi e lento a placarsi, ma con poco risultato. E non so qual era delle due la più biasimevole. Matilde era più sgarbata e vanitosa, ma Rosalia, che per la sua età e per la sua signorilità esteriore poteva far sperare qualcosa di meglio, si mostrava provocante, leggera e sconsiderata come una stordita bambina di 12 anni. In una bella giornata dell'ultima settimana di febbraio passeggiavo nel parco godendo il triplice piacere della solitudine, della lettura di un libro e del bel tempo. La signorina Matilde era uscita per la sua cavalcata giornaliera e la signorina Rosalie era uscita in carrozza a fare con la mamma le visite del mattino, ma mi venne in mente che dovevo lasciare questi piaceri egoistici e il parco col suo magnifico baldacchino azzurro brillante, il vento dell'ovest che frusciava attraverso ai suoi rami ancora spogli, la neve che si attardava ancora nei suoi avvallamenti, ma che si scioglieva rapidamente sotto il sole, e il grazioso cervo che brucava l'erba umida, la quale già annunciava la freschezza e il verde della primavera. E andare invece fino alla casetta di Nancy Brown, una vedova il cui figlio stava a lavorare in campagna tutto il giorno e che aveva un'infiammazione agli occhi. Da qualche tempo ella non era più in grado di leggere con suo grande dolore, perché era una donna dallo spirito serio e riflessivo. Quindi andai e la trovai sola, come al solito, nella sua casa piccola e buia che sapeva di fumo e di chiuso, ma quanto mai linda e lustra. Sedeva accanto a un fuocherello composto di pochi tizzoni rossi e di un pezzetto di legno, lavorando lesta a maglia con un piccolo cuscino di sacco ai piedi, posto là per i comodi della sua amata gatta che vi stava distesa con la coda attorcigliata sopra le zampe vellutate e gli occhi socchiusi, miranti con aria sognante il parafuoco ricurvo e basso. «Ebbene, Nancy, come sta oggi?» «Sto benino, signorina. Gli occhi non vanno meglio, ma lo spirito è sollevato come non è mai stato», rispose alzandosi e salutandomi con un sorriso sereno che mi fece piacere, poiché Nancy era alquanto oppressa da malinconia religiosa. Mi felicitai del cambiamento e la convenne che era una grande benedizione, e mostrandosene riconoscente aggiunse: «Se piacerà a Dio di conservarmi la vita e di mettermi in grado di leggere di nuovo la mia Bibbia, sarò felice come una regina». «Oh, spero che Dio lo voglia», risposi, «ma intanto verrò io a leggergliela ogni tanto quando avrò un poco di tempo». Con frasi di gratitudine, la povera donna si mosse per offrirmi una seggiola, ma siccome io le risparmiai il disturbo, ella si affaccendò ad attizzare il fuoco e ad aggiungere qualche altra frasca ai tizzoni languenti, e poi, prendendo dallo scaffale la Bibbia asciuppata dall'uso, la spolverò accuratamente e me la diede. Allorché le chiesi se c'era qualche passo che preferiva che le leggessi, mi rispose: «Oh, se signorina Gray, per lei è lo stesso, mi piacerebbe sentire quel capitolo della prima epistola di San Giovanni che dice». Dopo qualche ricerca raggiunsi il capitolo indicatomi, e quando giunsi al settimo versetto ella mi interruppe e, scusandosi per tale libertà, mi pregò di leggere molto lentamente, così che potesse sentir tutto, e di soffermarmi a ogni parola, che volessi scusarla poiché non era una persona istruita. «Anche le persone più sagge», risposi io, «potrebbero ponderare su ciascuno di questi versi e trarne profitto, e io preferisco leggerli lentamente piuttosto che in fretta». Finii quindi il capitoletto lentamente, come mi aveva chiesto, e nello stesso tempo mettendovi tutta l'espressione che potei. La mia ascoltatrice mi seguì per tutto il tempo con la massima attenzione, e quando ebbi finito mi ringraziò di cuore. Rimasi in silenzio ancora un mezzo minuto, per darle il tempo di rifletterci, quando con mia sorpresa lo ruppe per chiedermi se mi piaceva il signor Weston. «Non so», risposi, un poco sorpresa da quella domanda imprevista. «Credo che predichi molto bene». «Sì, predica bene e parla anche bene». «Davvero?» «Sì, forse lei non si è intrattenuta con lui, non ha ancora parlato a lungo con lui». «No, non parlo mai con nessuna delle persone che vedo, fuorché le signorine del castello». «Oh, sono delle signorine graziose e gentili, ma non possono parlare come lui». «Allora è venuto a vederla, Nancy?» «Oh, sì, signorina, gliene sono grata. Viene a vedere tutti noi poveri, molto più spesso di quel che facessero il signor Bly o il curato. Ed è bene così, perché è sempre il benvenuto. Non possiamo dire altrettanto del curato. C'è chi ha paura di lui. Quando entra in una casa dicono che trova sempre qualcosa che non va e comincia una rampogna appena varcato la soglia. Ma forse crede che sia suo dovere dire quel che è male, e spesso viene per rimproverare le persone che non vanno in chiesa, o perché non si inginocchiano, non si alzano in piedi quando gli altri lo fanno, o perché vanno alla chiesa metodista, o per altre cose del genere. Ma non posso dire che egli con me abbia trovato molto da rimproverarmi. Venne a trovarmi una volta o due prima dell'arrivo del signor Weston, quando avevo lo spirito molto sconvolto, e siccome stavo molto male anche di salute, ebbi l'ardire di mandarlo a chiamare ed egli non si fece tanto aspettare. Ero profondamente sconvolta, signorina Gray. Meno male ora è passato, ma quando prendevo la Bibbia non potevo trarne nessun conforto. Quello stesso capitolo che lei mi ha letto orora mi sconvolgeva e turbava enormemente. Colui che non ama non conosce Dio. Queste parole mi parevano terribili, perché sentivo che non amavo né Dio né gli uomini come avrei dovuto e non ci sarei riuscita qualora avessi cercato. E il capitoletto avanti dice: «Colui che è amato da Dio non può commettere peccato». E c'è un altro punto che dice: «L'amore è il compimento della legge». E molti, molti altri, signorina, La stancherei se dovessi dirglieli tutti, ma tutti sembravano condannarmi e mostrarmi che non ero sulla strada giusta. E siccome non sapevo come rientrarci, mandai il mio Bill a pregare il signor Hatfield di essere così buono da venire da me un giorno. E quando venne, gli esposi tutti i miei affanni. E che cosa le disse Nancy? Ecco, signorina, aveva l'aria di prendermi in giro. Posso essermi sbagliata, ma emise una specie di fischio e gli vidi un leggero sorriso sulla faccia e disse: Ah, sono tutte sciocchezze, mia brava donna, lei è stata dai metodisti. Ma io gli dissi che non avevo mai avvicinato i metodisti e allora disse: Allora deve venire in chiesa, dove udrà le scritture spiegate nel senso giusto invece di meditare sulla Bibbia da sola in casa. Ma io gli dissi che, quando ero stata bene in salute, ero sempre venuta in chiesa, ma con quell'inverno freddo e con i miei reumatismi e il resto non mi arrischiavo ad avventurarmi così lontano. Ma, disse, trascinarsi fino in chiesa le farà bene i reumatismi. Non c'è nulla di meglio che muoversi per i reumatismi. Può camminare per la casa abbastanza bene, quindi perché non può venire fino in chiesa? La verità è, disse, che è troppo amante dei propri comodi. È sempre facile trovare delle scuse per eludere il proprio dovere. Invece lei sa bene, signorina Gray, che non era così. Comunque lo assicurai che avrei provato. Ma la prego, signore, gli dissi, venendo in chiesa quale sarà il vantaggio? Io ho bisogno di sapere che i miei peccati sono cancellati e di sentire che non mi saranno più rimproverati, di sentire l'amore di Dio fluire entro il mio cuore. E se non posso trarre del bene dal leggere la mia Bibbia e dire le preghiere stando a casa, che bene ritrarrò dall'andare in chiesa? La chiesa, rispose, è il luogo destinato da Dio per il culto. È suo dovere andarci più spesso che può. Se desidera conforto, deve cercarlo sulla via del dovere. E disse un mucchio di altre cose, ma non riesco a ricordare tutte le sue belle parole. Comunque si venne alla conclusione che sarei andata in chiesa il più possibile e avrei portato il mio libro di preghiere, avrei letto tutte le risposte dopo il chierico e sarei rimasta in piedi, inginocchiata e seduta e avrei fatto tutto a dovere. E mi sarei comunicata ogni occasione, avrei ascoltato le prediche di lui e del signor Bly e così tutto sarebbe andato a posto. Se avessi compiuto il mio dovere, avrei alla fine ricevuto la grazia di Dio. Ma se in questo modo non ottiene nessuna consolazione, disse, non c'è rimedio. Allora, signore, dissi, pensa che sia una reproba? Ecco, rispose, se fa di tutto per acquistare il cielo e non ci riesce, deve essere una di quelle persone che cercano di entrare per la porta stretta e non ne è degna. E poi mi chiese se avevo visto in giro quella mattina qualcuna delle signorine del castello. Gli dissi che avevo visto le signorine avviarsi verso Moss Lane ed egli gettò in terra con un calcio la mia povera gatta e corse dietro a quelle vispo come una allodola. Ma io ero molto triste. Sentivo le ultime parole pesarmi sul cuore come una morsa di piombo, da non riuscire a sopportarle. Comunque seguii il suo consiglio. Pensavo che avesse delle intenzioni buone, benché si servisse di strani mezzi, ma lei sa, signorina, che egli è ricco e giovane e quindi non può comprendere i pensieri di una povera vecchia come me. Comunque feci di tutto per mettere in pratica quello che mi aveva detto, ma forse la secco, signorina, con le mie chiacchiere. Oh no, Nancy, continui, mi racconti tutto. Ebbene, i miei reumatismi migliorarono. Non so se fu o no con l'andare in chiesa, ma una domenica che gelò, presi freddo agli occhi. Questa infiammazione non mi venne tutta di un colpo, ma poco per volta. Ma sto a parlarle dei miei occhi mentre le voglio raccontare della mia inquietudine spirituale. E a dire la verità, signorina Gray, non mi pare che potessi alleviarla con l'andare in chiesa. La mia salute probabilmente migliorava, ma il mio spirito non acquistava nulla. Continuavo a sentire la parola dei ministri, continuavo a leggere il libro delle preghiere, ma era come un rintronar di bronzo, un suonar di cembalo. Le prediche non le intendevo e il libro di preghiere mi serviva solo a provarmi quanto fossi in peccato, poiché leggevo quelle parole sante e non miglioravo. E spesso le sentivo, invece che come una grazia e un privilegio, come per tutti i buoni cristiani, come un tormento e un peso. Mi pareva che tutto per me fosse arido e oscuro, e poi le parole tremende, molti cercheranno di entrare e non potranno, mi gelavano l'anima per lo spavento. Ma una domenica che il signor Hatfield parlò del sacramento, notai che disse: Se c'è qualcuno di voi che non può calmare la coscienza, ma cerca dell'altro conforto e consiglio, venga da me o da qualche altro saggio e colto ministro di Dio, gli apra il suo cuore. Così la mattina della domenica seguente, prima dell'ufficio, andai diritta in sacrestia per parlare di nuovo al rettore. Non riuscivo a trovare il modo di prendermi quella libertà, ma pensai che essendo in gioco la mia anima non dovevo arrestarmi dinanzi a delle inezie. Mi rispose che in quel momento non aveva tempo di darmi ascolto. E poi, disse, non ho nulla da dirle se non quello che le ho già detto, di prendere la comunione, naturalmente, e di persistere a compiere il suo dovere. E qualora non le serva, non c'è nulla da fare, e così non mi infastidisca più. Così allora andai via. Ma sentii il signor Weston, perché c'era anche il signor Weston, signorina. Era la prima domenica che si trovava a Horton, sa, ed era in sacrestia, in cotta, che aiutava il curato a vestirsi. Sì, Nancy. E sentii che chiedeva al signor Hatfield chi ero, e quello disse: Oh, una ipocrita vecchia pazza. Ne fui molto ferita, signorina Gray, ma andai al mio posto e cercai di compiere il mio dovere come prima, ma mi pareva di non avere pace. E presi anche la comunione, ma sentivo come se avessi mangiato e bevuto la mia dannazione. Così tornai a casa, profondamente turbata. Ma il giorno dopo non avevo ancora finito le faccende, perché, signorina, davvero non mi sentivo l'animo di spazzare, rassettare e rigovernare, e così ero seduta fra le immondizie. Chi entra se non il signor Weston? Io mi alzai di soprassalto a scansare il sudiciume e a spazzare e ordinare, e mi aspettavo che cominciasse un rimprovero per la mia pigrizia, come faceva il signor Hatfield, ma mi sbagliai. Mi diede soltanto il buongiorno con un tono tranquillo e cortese. Così spolverai per lui una sedia, rassettai un poco intorno al fuoco, ma non avevo dimenticato le parole del curato, così gli dissi: Mi meraviglio, signore, che si sia preso la briga di venire così lontano per vedere un'ipocrita vecchia pazza come me. Parve sorpreso a queste parole, ma cercò di persuadermi che il curato aveva scherzato, e siccome non ci riuscì, disse: Bene, Nancy, non ci deve pensare tanto. Il signor Hatfield in quel momento era un po' di cattivo umore, sa che nessuno di noi è perfetto. Perfino Mosè parlò sconsigliatamente. Ma si sega un minuto se ha tempo, mi confidi i suoi dubbi e i suoi timori e cercherò di dissiparli. Così mi misi di rimpetto a lui. Era per me un estraneo, lei sa, signorina Gray, e anche più giovane, credo, del signor Hatfield, e l'avevo giudicato meno bello di lui, e a prima vista di aspetto un poco sgradevole, ma parla con tanta cortesia. E quando la gatta, poverina, gli saltò sulle ginocchia, la carezzò e le fece un leggero sorriso. Così pensai che quello era un buon segno, perché una volta, quando aveva fatto la stessa cosa al curato, quello l'aveva scacciata via, poverina, come per disprezzo e rabbia. Ma non ci si può aspettare, naturalmente, signorina Gray, che un gatto conosca le buone maniere come un cristiano. No, certamente no, Nancy. Ma che disse allora il signor Weston? Non disse nulla, ma mi ascoltò con grande attenzione e pazienza, senza mai manifestare una punta di disprezzo. Così continuai e gli dissi tutto, come ho detto a lei, e anche di più. Ecco, disse lui, il signor Hatfield ha ragione nel dirle di perseverare nel compiere il suo dovere, ma nel consigliarla ad andare in chiesa e ad assistere all'ufficio divino e via dicendo, non ha specificato che non era questo tutto quanto il dovere di un cristiano e pensava che là potesse apprendere qualcos'altro da compiere. E che avrebbe finito per trovare della gioia in quegli esercizi pii invece di considerarli un peso e un fastidio. E se gli avesse chiesto di spiegare quelle frasi che tanto la turbavano, credo che le avrebbe risposto che se molti cercano di entrare dalla porta stretta e non ci riescono, è per l'impedimento dei loro peccati, allo stesso modo di un uomo con un gran sacco sulle spalle che desidera ficcarsi per un piccolo passaggio e non ci riesce, fino a che non lascia indietro il suo sacco. Ma lei, Nancy, son certo non ha nessun peccato che non sarebbe contenta di gettare da parte se sapesse come. Oh, signore, proprio così, dissi io. Bene, continuò. Lei conosce il primo e grande comandamento e il secondo, che è altrettanto importante, sui quali due comandamenti si fondano la legge e i profeti. Lei dice che non può amare Dio, ma mi colpisce che non ci riesca se considera bene chi è e che cosa è egli. E amore. E più amore abbiamo dentro di noi, più vicini gli siamo, più possediamo del suo spirito. Vede, signore, dissi, se potessi sempre pensare in questo modo, credo che potrei amare Dio come si deve, ma come posso amare i miei vicini quando mi fanno del male? E ce ne sono alcuni di loro cattivi e peccatori. Può sembrare un affare duro, disse lui, amare i nostri vicini che hanno del male in loro, i cui difetti tanto spesso risvegliano il male che alberga in noi. Ma si ricordi che più felicità procureremo agli altri, e più ne riceveremo noi, perfino qui, e più grande sarà la nostra ricompensa quando ci riposeremo delle nostre fatiche. Credo, signorina, che disse proprio queste parole perché ci ho ripensato molte volte sopra, e poi prese la Bibbia e lesse dei brani qua e là, li spiegò chiari come il giorno, e mi sembrò che una luce nuova irrompesse nell'anima mia. Provai un'allegria in cuore e desiderai soltanto che il caro Bill e tutti quanti gli altri fossero lì ad ascoltare e a gioire con me. Quando andò via, la mia vicina Anna Rogers venne dentro a chiedermi di aiutarla a lavare. Le dissi che non potevo in quel momento perché non avevo ancora messo sul fuoco le patate per il pranzo né lavato le stoviglie della colazione. Così allora cominciò una requisitoria sulla mia pigrizia. Mi sentii un poco seccata sulle prime, ma non le risposi in modo cattivo. Le dissi soltanto, sempre con calma, che avevo avuto la visita del nuovo coadiutore, ma che mi sarei sbrigata più presto che potevo e poi sarei andata ad aiutarla. Così allora si raddolcì e il mio cuore si riscaldò per lei e in un momento fummo ottime amiche. È proprio così, signorina Grey. Una risposta dolce dissipa il rancore, mentre delle parole dure attizzano la collera. E non solamente in quelli a cui parliamo, ma anche in noi stesse. È proprio vero, Nancy, se riusciamo sempre a ricordarcene. Sì, se riusciamo.